la liquidazione per una notte tu. Ma io, se mi permetti un po' di dignità, non sgranerò confetti per un'eternità. Ma intanto prendi il coraggio e vai, che se ti fermi il peggio per noi. Fare l'amore una volta in più sarebbe come non farlo, come non farlo. Tu prendi il coraggio e schiaffeggiami, guardami in faccia, avvicinati, fatti mangiare e bere dalla mia bocca. Quante nevrosi ho, un re che te le suona se mi dirai di no.